gli accorgimenti e le coperte vie io seppi tutte e sì menai lor arte ch'al fine de la terra il suono uscie. Quando mi vidi giunto in quella parte di mia etade ove ciascun dovrebbe calar le vele e raccoglier le sarte, Ciò che pria mi piacea allor m'increbbe e pentuto e confesso mi rendei. Ahi, miser lasso, e giovato sarebbe. Lo principe di novi farisei, avendo guerra presso a Laterano, e non con Saracin né con Giudei, che ciascun suo nimico era cristiano, e nessuno era stato a vincer Acri, né mercatante in terra di Soldano, né sommo ufficio né ordini sacri guardò in sé, né in me quel capestro che solea fare i suoi cinti più macri. Ma come Costantin chiese Silvestro dentro Siratti a guerir della lebbre, così mi chiese questi per maestro a guerir della sua superba febbre. Domandommi consiglio e io tacetti perché le sue parole parverebbre. E poi ridisse: tuo cuor non sospetti, finor t'assolvo e tu m'insegna a fare sì come penestrino in terra getti. Lo ciel poss'io serrare e diserrare, come tu sai, però son due le chiavi che il mio antecessor non ebbe care. Allor mi pinser gli argomenti gravi, là vel tacer mi fu avviso il peggio, e dissi: padre, da che tu mi lavi di quel peccato ov'io mo cader deggio, lunga promessa con l'attender corto ti farà trionfar nell'alto seggio. Francesco venne poi, com'io fu morto, per me, ma un di neri cherubini gli disse: non portar, non mi far torto, venir se ne dee giù tra i miei meschini, perché diede il consiglio frodolente, dal quale in qua stato li sono a crini, ch'assolver non si può chi non si pente, né pentere e volere insieme puossi per la contradizion che nol consente. Oh, me dolente, come mi riscossi quando mi prese dicendomi: forse tu non pensavi ch'io loico fossi. Aminos mi portò, e quelli attorse 8 volte la coda al dosso duro, e poi che per gran rabbia la si morse, disse: questi è di rei del foco duro, perch'io là dove vedi son perduto, e sì vestito andando mi rancuro. Quand'elli ebbe il suo dir così compiuto, la fiamma dolorando si partio, torcendo e dibattendo al corno aguto. Noi passammo oltre, e io e il duca mio, su per lo scoglio, infino in su l'altr'arco che cuopre il fosso, in che si paga il fio a quei che scommettendo acquistan carco. Fine del 27° canto dell'Inferno.